finalmente. Nel terror mio stolto, vedi a ceffi di birro in ogni volto. La pila, la colonna. A piede la Madonna mi scrisse mia sorella. Il bel sembiante. nel suo mistero le diverse bellezze insiem confonde. Eccellenza, vado. Fai il tuo piacere. Pieno il paniere, fa penitenza. Fame non ho. Oh, mi rincresce. E va di bandesce chiuda. Va. Thank you. Giuro, giuro, mia gelosa. Sì, lo sento te. Grazie. tanti panni or comprendo quel fare circospetto e il pregante fervore in giovin donna e bella m'avea messo in sospetto di qualche occultore or comprendo per amor di sorella salto onde sottrarmi a Scarpia Scarpia bigotto satiro che affina con le devote pratiche la foglia libertina e strumento alla scivo talento fa il confessore il boia mi costa se vi salverò ma indugiar fino a notte mal sicuro temo nel sole la cappella mette un orto mal chiuso poi c'è un canneto che va lunge pei campi a una mia villa minuta ecco la chiave innanzi sera vi raggiungo portate con voi le vesti femminili impenetrabile e sicuro per il Tedeum tu resta un nuovo e tu ma frugo ogni angolo raccogli ogni traccia va bene occhio alle porte senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte, un prigionier di stato, fuggi pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui? Ricordo. Forse c'è ancora, dove la cappella degli Attavanti? Eccola! Aperta! Arcangeli! E un'altra chiave! Buon indizio! Entriamo! Grave sbaglio quel colpo di cannone, il mariolo spiccato e il volo, ma lasciò una preda preziosa, un ventaglio. Qual complice il misfatto? Chi fa quelle pitture? Il cavalier Cavaradossi. E lui? Lui, il cavaliere? Lui, la vada di tosca, un uomo sospetto, o volta di lui. Vuoto, vuoto! E detto che fu? Si ritrovo nella cappella, questo bandiera. Tu lo conosci? Certo. Il sesto del pittor, ma non di me. Sputa quello che sai. Io lo lasciai pieno di cibo prelibato. Il pranzo del pittor avrà pranzato. Nella cappella non ne aveva la chiave, né contava pranzar. Disse gli stesso, ond'io l'avea già messo al ripacco. Libera me, domine. Or tutto è chiaro, la provvista del sacrista d'angelo ti fu la preda. Chissà dove sia, svanisca, taglialo per sua stregone via. Ecco, no, no, no, no, tradirmi mi non può. Non per galanteria, ma per offrirvi l'acqua benedetta. Grazie, signore. Un nobile esempio il vostro, al cielo pieno di santo zelo attinge. Oh, sonrare, voi calcate la scena e in chiesa ci venite per pregar. Entendete? E non fate come certe sbandate che anni Maddalena viso ai costumi. Pittore questo ventaglio dove stava là su quel palco qualcun benne certo a sturbar gli amanti vedesse nel fuggir per delle penne. Le braccio, le mie spalle grede. Or del veleno tre sbirri, una carrozza. Presto, seguila dovunque vada, non visto, provvedi. Va bene, il convegno. Palazzo Farnese. Va. Sannita Scarpia, fa Tosca, e Scarpia pesce il solco della tua gelosia. 听众朋友，刚才您欣赏到的是由帕瓦罗蒂、弗雷尼、米尔奈斯等演唱的意大利作曲家普契尼的歌剧《托斯卡》上半部分录音，稍后请您继续欣赏。 北京人民广播电台有线古典音乐广播 有线调频98.6兆赫。 感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 听众朋友大家好，欢迎收听北京音乐广播古典音乐有限频道调频98.6兆赫的歌舞剧场节目。接下来请您继续欣赏帕瓦罗蒂、弗雷尼、米尔奈斯等演唱的意大利作曲家普契尼的歌剧《托斯卡》下半部分录音。 Quest'oria i miei segugi le due prete azzannano. Domani sul palco vedrà l'aurora Angelotti e il bel Mario alla capennere. Toschi a palazzo, un ciambellane uscì a furora in faccia. Apri. Tarda è la notte. Alla cantata ancor manca la diva. E strimpellando botte, tu attenderai la Tosca in su l'entrata. Le dirai che l'aspetto finita la cantata. Meglio. Le darai questo biglietto, ella verrà. Del suo Mario per amor del suo Mario al piacer mio s'arrenderò alle profondi amori e la profonda miseria conquista violenta del bellicuo consenso io di sospiri e di lattigi dose alle lunari poco battano e non so trarre accordi di chitarra e oroscopo di fior né far l'occhio di pesce o tu bar come tortora la cosa bramata per sempre me ne sazio e mi l'aggeppo volta nuova esca io creo di te se ben bravi e diversi io voglio star quanto più posso dell'opera di te sempre giunto entri a buon punto galantuomo, come nella caccia. Santi Ignazio m'aiuti. Della signora seguimmo la traccia. Giunti a un'erba di menta tra le frati perduta. E la ventrò. E si sarà ben presto. Allora scavalco l'esco il muro del giardino con i cagnotti. E piombo in casa. Quel bravo spoletta. Razzolo, frugo. Ai, gli angelotti. Non si è trovato. A cane, a traditore, ceffo di pasi, mi scolta le parche. Gesù! C'era il pittore. Cavare Dossi. E sa dove l'altro s'asonde. Ogni suo gesto, ogni accento tragia, tal me far da ironia, che io lo trassi in arresto. Meno male. E lì è là. Introducete il cavalier. A me Roberti è il giudice del fisco. Tal violenza! Cavalier, vi piaccia accomodarvi? Può sapere... Sedete! Aspetto! E sia! Ve noto che una prigione... fuggito da Castel Sant'Angelo ignoro pur si pretende che voi l'abbiate colto in Sant'Andrea con gli storici voi di resti menzogna e guidato ad un vostro potere suburbano nego le prove un suddito fedele al fatto chi m'accusa i vostri birri in van trugar la villa segno che ben celata sospetti di spia per le vostre ricette e mi ride e rido ancora e rido ancora questo è il luogo di lacrime or basta rispondete ove angelotti non lo so negate le dei dato cibo nego e resti nego e asilo nella villa che te lasci nascosto nego nego cavaliere riflettete saggia non ego testa ostinatezza vostra a angoscia grande, pronta confessione vi terrà. Io vi consiglio, dite, dove dunque Angelotti? Non lo so! L'ultima volta, dove? Non so! Come tratti di corda! Eccola! Mario, dov'è? Quanto avresti caci o uccidi! Mario Pavaradossi! Ordinarie, indi ai miei cenni. Quell'aria sgomentata. Momento alcun non ha. La storia del ventaglio fu sciocca gelosia. L'atto avanti non era dunque alla villa. No, era solo. Solo. Devone! Thank you. nel pozzo del giardino. Va, Spoletta! Hai tradito! Aria fritta come sempre mi sconfitta e sconfitta come dove la madre guarda una nuova parte di tutto me la so che la sei fuga. Thank you. fallace speranza. La regina farebbe grazia a un cadavere. Come tu mani. Oddio! Così, così ti voglio. Fasimi d'amore! Bene! Mia! Bene! Mia! Aiuto! Mia! Aiuto! Mia! Aiuto! Odi il tamburo, s'avvia, guida la scorta ultima ai condannati. Il tempo passa, sai quale oscura opera laggiù si compia? Là si drizza un patibolo. Al tuo Mario, pel tuo voler, non resta che un'ora di vita. Thank you. uccise. E bello si appenda morto alle forche. E l'altro prigionier, cavalier Cavaradossi. È tutto pronto, eccellenza. Dio m'assisti. Aspetta. Simular non posso far grazia aperta, bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà. Chi m'assicuro? L'ordin che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi! Ho mutato d'avviso, il prigioniero si è fucilato. Facemmo del conte Palmieri un'uccisione simulata, come avvenne del Palmieri. Hai ben compreso? Ho ben compreso. Va, voglio avvertirlo io stesso. E sia, le darai passo. Vada allora quarta. Promessa. Non ancora. Voglio un salvacondotto onde fuggir dallo stato con lui. Partir dunque volete? Sì, per sempre. Si adempia il voler vostro. Thank you. tachicardia. Soccorso, aiuto. Ti soffoca il sangue. Muoio. Muori, dannato. Muori. Muori.

precede. La prima sua grazia è questa. E l'ultima? Che dici? Mia cosa, ogni amore pulito, purgò. Innamorate il sole.

Oh, presto, amore!